Hashtag Autotrasporti. Emanato a gennaio, il decreto del governo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la settimana scorsa e ha sancito il passaggio delle competenze relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle province alla motorizzazione. Il decreto ha fissato anche una finestra di 6 mesi durante i quali, diciamo così, il cambio della guardia dovrà essere completato prima che la riforma entri a pieno regime. Norma chiara sotto il profilo formale, meno sotto quello pratico, sottolineano da tempo le associazioni di categoria che hanno chiesto ed ottenuto un incontro al Ministero delle Infrastrutture, dove oggi pomeriggio Unatras e Anita sono convocate. I dubbi interpretativi si affollano quanto l'incertezza su come potranno svolgersi alcuni passaggi fondamentali, a partire da chi, cioè dal personale, che dovrà materialmente prendere in carico le competenze. Alla fine di aprile, la conferenza Stato, Città, Autonomie Locali ha raggiunto un accordo per il trasferimento di personale dalle province agli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture, ma del decreto non sono chiare le dimensioni e l'operatività delle strutture locali. Nel testo si fa riferimento solo alla previsione del parere consultivo dell'unico comitato interprovinciale per ciascuna delle 4 direzioni generali territoriali. Un'incertezza che in questi mesi di transizione ha comportato interpretazioni diverse se non contraddittorie da parte di vari enti periferici. Sullo sfondo, le difficoltà tecniche riscontrate da tempo su tutto il territorio a causa delle disfunzioni negli uffici delle motorizzazioni civili. In particolare, lamentano gli autotrasportatori, l'organizzazione delle sedi provinciali non garantisce un servizio adeguato per le revisioni dei veicoli sopra le 3,5 tonnellate. E per il mondo dell'autotrasporto, e non solo per quello, la notizia delle ultime ore viene ancora dalla Sicilia in relazione al blocco dell'autostrada Palermo-Catania che spezza in due l'isola. Il governo è pronto a decretare lo stato di emergenza per dare il via alla costruzione del bypass necessario per aggirare il tratto interrotto. Ieri il ministro Del Rio ha detto che il provvedimento potrebbe essere firmato nel Consiglio dei Ministri di venerdì e dovrebbe comprendere una serie di agevolazioni a favore degli autotrasportatori a partire dai pedaggi autostradali. Nel frattempo la Regione Sicilia ha aperto un tavolo tecnico per gestire l'emergenza al quale partecipano amministratori e rappresentanti delle categorie penalizzate dal blocco della A19. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.